Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Il digitale rende le nostre scelte più o meno costose? Una domanda che circola da tempo nel mondo dei consumi. Noi ve la proponiamo nella settimana del Black Friday, che termina domani con la coda tecnologica del Cyber Monday. Grandi affari o solo psicologia? Con il digitale vince chi fa la fatica di scegliere con intelligenza. Ci piace rispondere citando un grande esperto della rete, Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. E poi dalla Quinta Strada di New York a via Monte Napoleone a Milano, che cosa raccontano delle città e dei flussi economici e turistici le grandi vie dello shopping, le cosiddette Main Streets? Lo scopriremo tra pochissimo. Focus sui trend dedicato invece alle nuove frontiere delle consegne a domicilio, dai droni ai robot, passando per gli uffici postali drive e i lockers nei condomini. Difficile capire oggi quando un prezzo è veramente giusto, tra valore reale e percepito, tra prezzo pieno e sconti. Nel bel mezzo di una guerra, e il Black Friday lo testimonia, in cui la corsa all'ultimo prezzo non finisce mai. Quest'anno, nella guerra dei prezzi che dura una settimana, sono entrati anche i supermercati, gli hotel, i fornitori di luce e gas, persino le agenzie immobiliari. Nell'era della fine della certezza del prezzo, però, anche il consumatore più scaltro rischia di restare disorientato, perché delle due l'una: o il cretino, consentitemi l'espressione, è chi ha venduto la casa venerdì con 46.000 euro di sconto, oppure i cretini siamo tutti noi, tutti gli altri 364 giorni dell'anno. Quanto conta oggi l'aspetto psicologico? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Russo, professore associato di psicologia dei consumi e neuromarketing allo IULM di Milano. Diciamo che questo è un tema abbastanza noto e risaputo. Considerate che nel 2002 Daniel Kahneman vince il premio Nobel sull'economia, dimostrando che c'è una grande differenza tra il valore oggettivo del denaro e il valore soggettivo. Il valore soggettivo non coincide quasi mai con il valore oggettivo, quindi è chiaro che la comunicazione può aiutare a percepire diversamente la stessa cifra. Come dire, il valore delle merci non è legato soltanto all'aspetto oggettivo, ma a quello che io posso pensare di acquistare una volta che ho preso quel particolare prodotto. Quindi è chiaro che grazie al gioco dell'emozione è possibile fare percepire prodotti che costano poco ma che in realtà hanno un grande valore soggettivo, viceversa. È una vecchia storia, la conosciamo già da tantissimi anni. È chiaro che ci possono essere delle strategie mirate per far percepire che quella è l'unica occasione, l'ultima occasione. Qui diciamo che chi si occupa di persuasione ha trovato sempre delle soluzioni più o meno accattivanti che permettono di far percepire, diciamo, un grande valore emozionale ad una promozione. Quali sono i trucchi? I trucchi sono quelli che fanno sì che tramite la comunicazione si percepisca che quella percentuale e di sconto è la più alta che ci possa essere. Quindi quando io dico c'è un particolare momento della settimana in cui hai la garanzia che, beh, già quello ti fa percepire che quella è l'unica occasione da non perdere. Poi se ci mettiamo l'elemento che ha una fortissima valenza emozionale, cioè il tempo limitato per l'acquisto, il numero limitato di prodotti che possono essere acquistati in sconto e soprattutto la consapevolezza che ci sono tanti altri che possono accedere a quel prodotto, beh, il gioco è fatto. C'è un rischio per il consumatore, questa corsa non finisca mai e poi di fatto l'acquisto non avviene? Beh, questo può essere un rischio, nel senso che si chiama paradosso della troppa scelta, cioè quando noi abbiamo troppe opportunità rischiamo di non prendere neanche una. Allora l'abilità di chi comunica è di far percepire che quella è l'unica vera opportunità che hai. è una guerra che diventa una guerra di persuasione, non è una guerra relativa al prodotto e al costo di quel prodotto, è una guerra di persuasione che deve fare in modo che quella particolare offerta venga fuori tra tante altre, perché se rimane al pari delle altre, allora si rischia di avere il paradosso della troppa scelta. Quello che continua a dimostrare questa tecnica è che, come dire, i consumatori non sono delle macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Quindi è la solita frase che io ripeto, segnalando come l'emozione non è un elemento disturbante nel processo decisionale, quindi di acquisto, ma che è l'elemento cogente della decisione. Ebbene sì, è sempre lei, Upper Fifth Avenue a New York, la via commerciale più cara del mondo, seguita da Causeway Bay ad Hong Kong e New Bond Street a Londra. Lo rivela la 29esima edizione del rapporto firmato Cushman & Wakefield, che prende in esame oltre 400 vie commerciali in 68 paesi nel mondo e le classifica sulla base dei canoni di affitto per spazi commerciali. Nella classifica europea sono presenti ben 4 città italiane nelle prime 8 posizioni, ci ha raccontato Thomas Casolo. È stato sicuramente un anno positivo, in quanto abbiamo riscontrato una crescita dal punto di vista degli affitti, soprattutto per la nostra via Monte Napoleone. Ha raggiunto la 4ª posizione rispetto all'anno precedente, che era in 6ª posizione. E questa è una conferma soprattutto che la città di Milano ha raggiunto una importante maturazione, ma soprattutto ha confermato ancora una volta essere una via Monte Napoleone, una delle vie sicuramente più importanti dal punto di vista del retail, del lusso nel mondo. Di quali valori per metro quadro parliamo? Stiamo parlando di valori stimati intorno ai 13.500 euro metro quadro sull'area ponderata, quindi sulla superficie calcolata al piano terra. Le altre città italiane presenti quali sono e con quali vie? Beh, innanzitutto abbiamo Roma, che comunque si conferma essere un'altra importante via nel mercato del lusso, con via Condotti. Poi abbiamo Venezia e Firenze, che sono ormai posizionate tutte nelle prime 15 vie nel mercato mondiale. Che cosa significa l'High Street per una città? Beh, l'High Street è il cuore della città dal punto di vista del retail, dal punto di vista del mercato, del fashion, dell'acquisto sostanzialmente. Oggi la preoccupazione, se vogliamo, più importante da parte di tutti i brand è che l'High Street è sicuramente il punto di riferimento del mercato del retail, ma non dobbiamo dimenticarci che sta crescendo in maniera imponente le vendite online, quindi sempre di più ci sarà molta attenzione da parte di tutte le aziende e i retailer alla crescita e a far combaciare quelle che sono le esigenze sia dal punto di vista espositivo, quindi del prodotto all'interno dei punti vendita, sia da un punto di vista degli affitti, perché ovviamente le vendite online porteranno via parte del fatturato all'interno dei negozi. Londra con New Bond Street sale al terzo posto, nonostante la Brexit, verrebbe da dire. Che cosa racconta in controluce il vostro rapporto rispetto agli equilibri economici globali e ai flussi turistici? Ma sicuramente ci si aspettava con la Brexit un cambiamento radicale del mercato. In realtà questo non è avvenuto, perché sicuramente l'indebolimento della sterlina ha fatto sì che c'è stata una maggiore affluenza del turismo e comunque una ripresa dell'economia, a dimostrazione del fatto che comunque in Old Bond Street, New Bond Street, i valori di affitto sono, in alcune case sono cresciuti, in altri hanno mantenuto il livello. Questo è per noi un dato molto importante. La città di Londra ha continuato ad essere una città molto attrattiva dal punto di vista delle aziende del lusso e anche ha consolidato alcune importanti aree nell'area del retail. Ci sono casi particolari di vie in declino? Dai numeri possiamo vedere che è scesa un po' Champs-Élysées a Parigi, ma questo sicuramente ha influito moltissimo la questione, le questioni anche degli attentati, le questioni anche del calo dell'arrivo dei cinesi che si aspettava ovviamente in grande affluenza soprattutto nell'area di Parigi, ma lo stesso asiatico ha diminuito gli arrivi in Europa. Però per il resto no, direi assolutamente. Il mercato europeo ha confermato ancora una volta di essere un mercato assolutamente di grande attenzione, e questo dimostra il fatto che nelle prime 10 città sono presenti le prime città europee, insomma. Quindi questo è importante. Dalle chiavi intelligenti che consentono la consegna dentro casa fino ai robot. Come guarda al futuro il mondo dell'e-commerce e delle consegne? Tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Essere e avere. Pavolettoni! Pronti! Vai! Vado! Carella! Pronti! Vai! Vado! Falsi! Che cavolo fa? Sto caricando i pacchi, ma perché così tanti, signor Carotti? Ma non sei milanese, non ti piace di lavorare, allora lavora, no? Bauscia! Focus sui trend. 3,6 miliardi di euro. Questo è il giro d'affari dell'e-commerce registrato nell'ultimo anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio promosso da Politecnico di Milano e Netcom, più 17% rispetto all'anno precedente. E per la prima volta gli acquisti online di prodotti superano quelli dei servizi. Tutto ciò si traduce ovviamente in milioni di pacchi spediti. Ogni mese se ne stimano, pensate, 12 milioni. Pacchi che vanno incontro anche a resi e a mancate consegne. Una sfida dunque soprattutto per la logistica, come testimonia del resto lo sciopero nel centro Amazon di Piacenza proclamato proprio per il Black Friday. Come sta guardando avanti il settore? Quali sono le nuove frontiere della consegna a domicilio e non? Questo è il tema del focus sui trend di questa settimana. Lo esploriamo insieme a Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, bentrovato. Buonasera a voi. Allora, quali sono i casi che hai raccolto per noi? Da dove iniziamo, Carlo? Iniziamo dagli Stati Uniti, dove la catena di supermercati Walmart sta testando la consegna a domicilio, anzi, fino al frigorifero di casa. Grazie a speciali serrature intelligenti, il corriere potrà aprire la porta di casa nostra utilizzando un codice usa e getta. Il corriere poi lascerà il pacco all'interno dell'abitazione subito dietro la porta, ma in caso di alimenti da conservare al fresco è prevista anche la consegna direttamente nel frigo o nel freezer. Il proprietario riceverà una notifica sul suo smartphone e potrà seguire le operazioni tramite una videocamera. Questo ovviamente per così sospetti, insomma, sulla sicurezza. Ecco, avere un estraneo in casa non esatto, è il massimo. Esatto, è un sistema simile in sperimentazione, si chiama Amazon Key di Amazon, che è attivo dall'8 novembre in 37 città americane. Anche qui il sistema funziona con la nuova Cloud Cam, una serratura intelligente, un'app che genera la password temporanea. Anche qui il corriere viene videoregistrato. Molti utenti però sono contrari all'idea di consentire l'accesso a uno sconosciuto mentre si trovano fuori casa e quindi si stanno studiando soluzioni meno, tra virgolette, invasive, ma che consentano comunque la consegna in assenza del destinatario. Ancora Amazon ha stretto un accordo infatti con alcune delle più grandi società immobiliari americane per installare degli Amazon Lockers, degli armadietti che costituiscano punto di ritiro self-service dove è possibile ricevere i propri acquisti direttamente nell'atrio del proprio condominio. Questo serve anche per rispondere a un fenomeno che è quello dei pirati delle verande, cioè i ladri che si appropriano dei pacchi lasciati fuori dalle porte dei clienti, un fenomeno che ha colpito 23 milioni di americani. americani. E infatti c'è sempre, come dire, una certa ritrosia a segnalare consegna davanti alla porta di casa, insomma non ci si fida mai troppo, i dati appunto lo testimoniano. Consegna a casa, ma non solo, anche le consegne centralizzate sperimentano nuovi format. Sì, perché la consegna a casa, che continua a essere la modalità preferita da quasi il 90% dei clienti italiani, in realtà è la più costosa sia in termini economici che ambientali, quindi si capisce quale sia il desiderio di centralizzare le consegne da effettuare in assenza del destinatario. Qui abbiamo un paio di esempi italiani che sono Fermopoint e Penguin Lockers, quest'ultimo che è dedicato alle consegne refrigerate. Fermopoint ha realizzato e strutturato una rete di negozi sotto casa dove il negoziante è autorizzato a ritirare la merce ordinata per conto del cliente, che in un secondo momento può passare a ritirare il proprio pacco. Ad oggi aderiscono 2200 negozi della rete, che sono bar, cartolerie, edicole, tabaccai, presso cui è possibile ritirare gli ordini. Con questa modalità quindi il cliente non deve più aspettare a casa il passaggio del corriere, ma può ritirare quando vuole. I Penguin Lockers invece sono armadietti refrigerati, modulari, facili da installare, uno sull'altro come fossero dei mattoncini di Lego. Ogni modulo è indipendente dagli altri ed in grado di offrire un diverso livello di temperatura a seconda del prodotto che dovrà ospitare. Il progetto prevede di costruire una rete di punti di raccolta che siano posizionati in punti strategici e molto frequentati, come le grosse aziende o le realtà con numerosi dipendenti come gli ospedali. A supporto ovviamente della spesa che possiamo fare tutti i giorni. Anche gli uffici postali, Carlo, si adeguano? Sì, è del caso delle Poste canadesi, che stanno sperimentando il drive-thru. In alcuni dei loro uffici postali infatti è possibile entrare con l'auto in una corsia, scansionare un barcode ricevuto e poi continuare in auto fino allo sportello per ricevere il pacco direttamente dal finestrino. E per rispondere alla crescita costante dell'e-commerce di abbigliamento e scarpe, che comporta dei costi considerevoli, come dicevi, per resi e perdite di tempo per i clienti, il servizio drive-thru permette un camerino a disposizione dei clienti che possono così provare i prodotti acquistati e decidere subito se tenerli oppure restituirli. Beh, questo è veramente fantastico, lo voglio subito anche in Italia. Dei droni, Carlo, abbiamo parlato altre volte, Amazon e UPS li stanno già sperimentando, soprattutto sono vincenti, per così dire, nelle aree a bassa densità abitativa come le aree rurali, dove i corrieri ovviamente devono percorrere molti chilometri tra un destinatario e l'altro, oppure inoltrarsi nella campagna rispetto alla strada principale. La nuova frontiera però sono i robot, quindi torniamo alla consegna su strada. Come quella che sta sperimentando l'azienda Estone Starship in molte città del mondo. Si tratta di un robottino elettrico su ruote che è in grado di muoversi sui marciapiedi alla stessa velocità dei pedoni e di consegnare pacchi ed alimenti, quindi sia caldi che freddi, fino a 10 kg in un raggio di 3 km dal punto di carico. Il vano di carico dei robot viene aperto solo dal destinatario tramite un codice ricevuto sul telefono. Durante i primi mesi di servizio i robot, che sono stati assoldati da Just Eat, hanno consegnato più di 1000 pasti nei quartieri di Londra dove è stato avviato il servizio. Chiudiamo con un esempio invece a bassa tecnologia, diciamo così, dai robot agli autobus. Sì, perché anche gli autobus potrebbero far parte in futuro di questo ecosistema. La società Go Ahead, che si occupa del servizio pubblico di autobus di Londra, sarebbe in trattative con Amazon per utilizzare le proprie stazioni di servizio come deposito merci e la propria flotta di autobus come mezzo per smistare i pacchi tra i depositi della capitale inglese. Ovviamente i benefici di questa possibile collaborazione stanno nella riduzione del traffico cittadino. Ecosistema, hai detto benissimo, Carlo, è proprio questo, insomma una mappa di punti di consegna e di strategie, di format appunto per farci arrivare tutto quello che ordiniamo online. Grazie a Carlo Ricciardi, alla prossima. Grazie a voi. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema di questa sera? Questa sera partiamo dalla nascita di un'associazione ma anche da un libro. E quello che mette insieme questi due argomenti è la responsabilità. L'associazione si chiama Quinto Ampliamento e si ispira a un personaggio che tu sai mi è molto caro, che è Adriano Olivetti, che per ben 4 volte ampliò la sede e la fabbrica di Olivetti ad Ivrea, e quindi l'idea di un quinto ampliamento è ispirarsi alle idee di Olivetti e quindi all'idea dell'economia civile per portarle nella contemporaneità. Il libro si chiama Grandi Brand e Grandi Responsabilità, il curatore è Sergio Tonfi e anche in questo caso il tema è più sei grande, quindi riguarda anche le multinazionali, non solo le aziende magari all'italiana come poteva essere Olivetti, più sei grande e più devi prenderti una responsabilità nei confronti del territorio in cui sei e dei tuoi, non solo dei tuoi clienti ma anche dei cittadini che in qualche modo accettano la tua esistenza. Abbiamo spesso guardato ai modelli internazionali come modelli di successo per scrollarci di dosso in qualche modo i nostri difetti, però abbiamo buttato via anche i nostri pregi. Ecco, in questo senso c'è un movimento di recupero della nostra italianità. Sì, c'è un movimento di recupero che è ancora sotto traccia, come sempre da noi in Italia, e quindi non ha trovato ancora una voce, diciamo, istituzionale. Ci sono dei segnali, ma noi vediamo, facendo questo di mestiere, da ricercatori, che l'italiano medio, il famoso italiano medio, la maggioranza silenziosa, comincia a essere più consapevole della sua potenzialità e della sua possibilità di lasciare il segno anche a livello globale, anche non solo in Italia, nel paese in cui vive, ma e questo riguarda molto anche i ragazzi, per fortuna, no? Che con l'Erasmus capiscono che essere italiani può essere un vantaggio competitivo. Guardando al modello olivettiano, colpisce l'attualità di un modello, di un'impresa di territorio che guarda appunto alle reti, agli equilibri sociali come a elementi fondamentali per la creazione di un valore condiviso. Sono valori che spesso le start-up, le società super tecnologiche attuali portano avanti il grande insegnamento, l'altro grande insegnamento di Olivetti, che lui ogni un per due era negli Stati Uniti, quindi andava poi nei luoghi in cui giustamente considerava ci fossero anche esempi di grande innovazione per poi italianizzarli e portarli ad Ivrea e portarli sul proprio territorio. Questo è quello che anche noi dobbiamo fare. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.